24 mattino. Sono le 8 e 17 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, al momento dell'economia. Dal 1 al 3 aprile alla Fiera di Roma, il primo appuntamento sull'ambiente urbano sostenibile. Ecopolis09.it vi presenta Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Ben ritrovati qua. A tutti, buongiorno. Tutto a posto? Tutto a posto, che cosa benissimo. Intendi? Benissimo, no. No, mi narrano di una sveglia un po' turbolenta. Guarda, capita, cosa vuoi che ti dica? Bene, parliamo. Però sono qua. Sei qua, ce l'abbiamo fatta. Parliamo di 5 per 1000 perché è tempo che si avvicina, prossimo, veramente vicino, di dichiarazioni dei redditi come ogni anno, l'incubo mio almeno. L'incubo mio, diciamo che questa è un po' più un'opportunità per tanti enti di ricerca, istituti di volontariato per essere finanziati, perché come contribuenti noi ovviamente possiamo destinare o quantomeno scegliere come lo Stato può destinare una quota di fondi pubblici che noi come contribuenti contribuiamo a formare. Allora quest'anno ovviamente ci sono delle novità per quello che riguarda il 5 per 1000, non ovviamente, è un istituto che è nato molto di recente nel nostro paese, nel 2006, sentiremo allora quali sono le novità che sono state previste dalla finanziaria 2009. Buongiorno a Franco Vannini, consigliere delegato dell'Istituto Italiano della Donazione. Buongiorno. Allora, che cosa ha fissato la finanziaria 2009 relativamente a questo istituto e che cosa aspettiamo ancora, perché in realtà manca un tassello, manca un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che deve fissare alcune cose. Vannini. Ma dunque, direi che ormai siamo in una situazione quasi storica, con questo sarà il quarto anno che il cittadino può fare questa destinazione del 5 per 1000. Sui modelli 730 piuttosto che quello generale, l'unico, troverà una zona dove indicare col solito sistema della posizione del codice fiscale l'ente per il quale desidera fare questa donazione, destinare questa parte delle proprie tasse. Ormai da questo punto di vista il cittadino può cominciare a operare. Ecco, può cominciare a operare, però come le dicevo prima manca ancora, come dire, la lista completa che proprio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere stilata degli enti di ricerca, degli istituti ai quali poi queste quote verranno destinate. Sì, potranno essere destinate. Purtroppo queste liste vengono pubblicate nei siti dell'Agenzia delle Entrate con notevoli ritardi, praticamente proprio a ridosso del momento in cui si va a fare la dichiarazione. Sono poco pratiche da consultare e quindi io credo che i cittadini facciano meglio a cominciare a guardare a tutti quegli avvisi, a quelle inserzioni pubblicitarie, a quelle comunicazioni che ricevono dalle organizzazioni che pensano di essere ammesse e che appunto indicano normalmente in modo molto chiaro il codice fiscale da porre sulla scheda. Quindi insomma mancano le liste ufficiali, però non è detto che non ci si possa già dare un'occhiata intorno per poter scegliere. Ma io direi sicuramente, anche perché le liste poi sono estremamente poco esplicative, riportano un codice fiscale e il nome di un'associazione. Spesso in Italia ci sono associazioni con nomi simili o addirittura identici sparsi dal Piemonte alla Sicilia. Ecco, infatti questo è un problema che si è posto proprio quando l'istituto del 5 per 1000 è partito nel 2006. Tanto è vero che le 2000 organizzazioni che teoricamente avrebbero diritto alla ripartizione di quei fondi che si sono formati in quell'anno ancora non hanno visto un soldo, dottor Vannini. Certo, c'è stato un rallentamento veramente al di là del ragionevole nella elargizione di queste somme. Ci sono molte contestazioni anche per inosservanza formali da parte delle organizzazioni nel presentare le loro domande di ammissione. È un vero peccato perché in pratica queste cifre sono state bloccate per circa 3 anni e come appunto ci sono ancora un paio di migliaia di organizzazioni che non sanno bene se riceveranno o meno questi fondi. Stiamo parlando dei fondi del 2006. E infatti negli anni successivi invece, dottor Vannini, è andato tutto bene? Negli anni successivi non sappiamo nulla, nel senso che di fatto non è stato dato ancora una lira. Quindi c'è veramente un ritardo che è poco tollerabile. Adesso è stata presentata una proposta di legge che facendo diventare, istituzionalizzando per legge il 5 per 1000 e quindi non lasciandolo legato alle varie leggi finanziarie, dovrebbe permettere all'amministrazione di essere più sollecita poi nella distribuzione. Quindi forse non ho capito, sappiamo con certezza che non sono ancora stati erogati i fondi che si sono formati nel 2006, ma anche quelli che si sono formati nel 2007 e nel 2008 non sono ancora stati distribuiti agli enti che ne avrebbero diritto? Nel 2006 sono rimaste ancora quote marginali di distribuzione, nel 2007 e nel 2008 la distribuzione deve essere ancora fatta. Ecco, questo certamente non è, come dire, non è una questione che pone il contribuente in una condizione molto, come dire, positiva nei confronti di questo istituto, o no? No, io direi che può stare tranquillo, cioè per quanto con estremo ritardo lo Stato sicuramente invierà le somme che sono state indicate agli enti perché sono stati prescelti. Io su questo non spargerei preoccupazione, c'è solo questo problema di grosso ritardo. Benissimo, quanto vale la generosità in cifre nel nostro paese, dottor Vannini? Sì, diciamo in generale attraverso proprio donazioni fatte dai cittadini, i 50, i 100 euro, i 20 euro, sono circa 3,3 miliardi di euro che ogni anno vengono date a organizzazioni non profit di varia natura. Il 5 per 1000 ha sempre dato un gettito ulteriore attorno ai 360-380 milioni di euro. Quali sono gli enti, come dire, preferiti dai contribuenti italiani? Sicuramente quelli che si occupano di salute, sia come nell'ambito della ricerca, sia nell'ambito del trattamento delle malattie o del malato in condizioni terminali o piuttosto gravi. E poi una grande quantità di organizzazioni di volontariato che hanno dimensioni normalmente anche molto piccole, molto distribuite sul territorio, che ricevono una bella fetta di contribuzioni, circa 160 milioni di euro attraverso il 5 per 1000. Ecco, noi conosciamo anche l'altro istituto che ha come dire, un'anzianità maggiore, che è quella dell'8 per 1000. Dottor Vannini, i due istituti sono incompatibili? Se faccio una donazione con il meccanismo del 5 per 1000 non posso farla per l'8 per 1000, per le istituzioni religiose? Assolutamente, sono totalmente indipendenti, si può quindi firmare per il 5 per 1000 e contemporaneamente anche per l'8 per 1000. E l'Istituto Italiano della Donazione che cosa fa? L'Istituto Italiano della Donazione è un ente il quale monitorizza, controlla i comportamenti delle organizzazioni non profit, nel senso di verifica che vengano ben usati i fondi che i donatori privati o le aziende danno le organizzazioni non profit per affrontare le proprie missioni. A quelli bravi, alle organizzazioni virtuose che superano una serie di nostri test, noi diamo un marchio, il marchio Donare con Fiducia dell'Istituto Italiano della Donazione. Dottor Vannini, io la ringrazio molto per essere stato a Soldi e Dintorni, le auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi, buongiorno. Buongiorno, a presto. Alessandro. Tra poco, Deborah, alle 12. Salvadanaio, noi oggi ritorniamo sui mutui, però stamattina mi sa tanto che dovremo dare un'occhiata anche alla borsa, perché sta andando un po' così. Stamattina, a seconda di quello che è successo a Tokyo, visto che c'è questo piano auto in arrivo dagli Stati Uniti, un po' di incertezza. C'è il terremoto nell'auto, esatto. Il doppio terremoto. Sono le 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Uno sguardo alle ultime notizie. Doppio terremoto nel mondo dell'auto nel giorno in cui il presidente americano Obama annuncerà nuovi finanziamenti al settore a fronte di drastici cambiamenti. In Francia è stato licenziato il presidente del gruppo Peugeot, Christian Streiff, mentre negli Stati Uniti si è dimesso il numero uno di General Motors, Richard Wagner, un passo indietro auspicato dalla stessa Casa Bianca. Al suo posto arriverà Fritz Anderson. In Italia più poteri al Premier, che oggi sono quasi inesistenti, e arricchimento della Costituzione. Sono questi gli obiettivi enunciati da Silvio Berlusconi, acclamato ieri presidente al congresso di nascita del Popolo della Libertà. L'auspicio, ha detto Berlusconi, è un confronto con l'opposizione, ma se non ci sarà, dice, andremo avanti comunque. All'estero, in Pakistan, sono almeno 20 le vittime di un attentato avvenuto questa mattina alla scuola di polizia di Lahore. Gli assalitori sono ancora nella scuola, dove è in corso una sparatoria con gli agenti. Infine, Trenitalia è stata condannata dal giudice di pace di Roma a risarcire con 1.650 euro, di cui 1.300 di spese legali, un passeggero che su un treno Roma-Latina viaggiò al freddo su una carrozza senza riscaldamento e con le porte intercomunicanti bloccate. La sentenza è stata resa nota dal Codacons. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato proprio a quello che è avvenuto nelle ultime 24 ore nel mondo dell'auto. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Il mondo dell'auto è in subbuglio dopo l'uscita del presidente di General Motors, Wagoner, e il licenziamento sempre ieri del numero uno di Peugeot, Strife. Il primo lascia alla vigilia di un nuovo aiuto del governo americano a GM e Chrysler, 22 miliardi di dollari dopo i 16 già concessi, e soprattutto dopo un ultimatum: o cambiate modelli o niente soldi del contribuente. General Motors ha cominciato cambiando presidente, ma dovrà essere rivoluzionata un'intera filosofia produttiva, con auto più piccole ed ecologiche. E l'intesa tra Fiat e Chrysler va nella direzione giusta. Il caso francese invece segnala anche quanto sia complesso il rapporto fra aziende in crisi e governi. Se gli stati intervengono e mettono i soldi dei contribuenti, è giusto che dettino delle condizioni. Assai discutibile che scelgano direttamente i manager, perché la fedeltà al governo finisce per far premio sui meriti e sui diritti degli azionisti. E poi c'è un tema molto delicato. L'auto va salvata, non c'è dubbio, ma così si impedisce la naturale selezione delle marche migliori. Ma quando soffia il vento della crisi, questi sono pensieri proibiti. Buona giornata. Grazie, buona giornata direttore, e ovviamente a domani alle 8.30 per l'asterisco. Sono le 8.34 minuti, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Oggi basta aprire, e spesso capita il lunedì, ma non solo il lunedì purtroppo, il Messaggero, e leggere una mezza pagina: alcol e pirati, uccisi 5 ragazzi. È stato un altro weekend in cui purtroppo si contano vittime della strada, 8 morti, 4 dei quali giovanissimi. Questo è successo nelle ultime 24 ore, ma d'altronde si sa, la prima causa di morte per i giovani è proprio quella degli incidenti stradali, spesso causati tra l'altro per l'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti. Sono oltre 5.000 le vittime all'anno. Nel 2007 si sono registrate 1.752 vittime di età compresa tra 18 e 34 anni. Io saluto l'onorevole Mario Valducci, buongiorno. Buongiorno a voi e tutti gli ascoltatori. E tra l'altro presidente della Commissione Trasporti. Onorevole Valducci, si leggono parole in questi giorni che parlano di severità, di stretta al codice stradale, di norme più restrittive, anche l'annuncio del ministro Matteoli, norme in arrivo, tolleranza zero, insomma, si usano e si sentono queste espressioni. Di che cosa si tratta? Si sta pensando a una stretta da questo punto di vista? Sì, noi in Commissione stiamo lavorando da più di 6 mesi su un provvedimento legislativo che nasce da un lavoro svolto dalla precedente maggioranza nell'altra legislatura e che è stato votato in comitato ristretto, e che personalmente, innovando un po', se vogliamo, gli iter parlamentari ordinari, ho lanciato la proposta al ministro Matteoli di far proprio questo testo per un decreto legislativo. Che cosa prevede questo testo? Il primo, la tolleranza zero, ovvero chi guida non beve, chi guida non beve, ovvero chi beve non guida, ovvero soprattutto per i neopatentati, i primi 3 anni da quando prendono la patente, e per tutti coloro che guidano in modo professionale trasportando merci o persone. Quindi fino a 21 anni, esatto. E per chi guida facendo l'autotrasportatore è vietato anche bere un goccio? Zero, anche perché noi riteniamo che i giovani sia importante, perché nel momento in cui un giovane incomincia a imparare a guidare con questo stile di guida, magari lo manterrà nel corso degli anni, anche perché lo 0,5 millilitri di milligrammi di tasso etilico previsto attualmente dalle norme in vigore è un tasso già molto molto rigoroso, che però induce moltissimi di noi a dire: beh, insomma, 2-3 bicchieri cosa vuoi che siano. Invece su molti giovani soprattutto basta un bicchiere di vino rosso o una birra a far superare questo limite. Quindi è bene questo messaggio e questa norma di chiarezza, anche perché ritengo che comunque anche un bicchiere possa creare sonnolenza, possa creare meno capacità di guida rispetto a quello che dovrebbe essere quando un giovane magari di notte si mette al volante. Quindi la novità più importante è questa, insomma, zero alcol per i primi 3 anni di patente e per chi fa, chi ha mansioni, chi ha dei lavori per cui si guida. Poi ci sono altre due, penso, novità di rilievo. Una riguarda l'aumento dei controlli, questo recuperando delle risorse finanziarie da tutte le multe che noi cittadini paghiamo agli enti locali, cioè ai comuni. Una parte di queste multe, il 10%, verrà trattenuta in un fondo presso il Ministero dei Trasporti e utilizzata con 3 finalità: aumento dei controlli fisici da parte delle nostre forze di polizia, formazione nelle scuole sulla sicurezza stradale e ammodernamento della segnaletica stradale. Ultima ma non ultima, maggiore pene amministrative e scatta la sanzione penale quando uno supera lo 0,8 di milligrammi di ecco tassi. Perché ho letto molto anche la parola carcere negli articoli che spiegano cioè sono previsti inasprimenti penali in Italia dalla certezza della pena, perché esistono tutta una serie di norme per cui c'è molta arbitrarietà da parte del singolo giudice sul fatto della carcerazione o meno. L'abbiamo visto anche purtroppo in altri casi ancora più gravi, quindi su questa cosa stiamo valutando se prevedere norme più restrittive, soprattutto sulla revoca delle patenti e soprattutto sul fatto che se c'è una sanzione di un ritiro di 6 mesi o di 1 anno della patente guida, questo sia tassativo e non soggetto un po', se vogliamo, a un eccessivo maternalismo che esiste in Italia. Tra l'altro, lei ha citato i controlli. Io voglio salutare anche Giordano Biserni, che è presidente dell'Associazione Amici della Polizia Stradale, l'ASAPS, anche nostro amico. Biserni, buongiorno, ben ritrovato. Insomma, buongiorno a voi. A volte la richiamiamo perché su questi temi voi siete molto, molto sensibili. Ecco, si parla molto di stretta. Che ne pensa, innanzitutto, delle norme che ci ha annunciato l'onorevole Valducci, e voi puntate molto sulla questione proprio dei controlli? Si sa che l'esempio è la Francia, no? Dove i controlli sono tantissimi rispetto all'Italia. Che ne pensa anche alla luce del fatto che ci saranno più fondi per i controlli se passerà questa stretta? Beh, io giubilo per i più fondi finalmente, perché certamente c'è un problema di risorse, l'ho detto il Presidente prima, e vanno trovate, perché quella della strada è un'emergenza che non è meno emergente delle altre, perché 14 morti, 900 feriti al giorno, lei ha esordito con la cronaca quotidiana, io potrei dire la cronaca di domani e dopodomani ci assomiglierà molto. Certamente noi siamo del parere che ancora sulla strada lo sforzo sul versante dei controlli non sia quello che noi prevediamo, nel senso che le medicine che stanno per essere adottate noi le condividiamo, anzi vorrei dire che vorremmo andare anche oltre, come ho già avuto modo di dire al Presidente Valducci. Noi aggiungeremo fra i valori zero della strada, oltre ai neopatentati professionisti, anche i recidivi che sbagliano 2 volte a prescindere dall'età, perché non sono solo. Questo è interessante, cioè dire chi viene beccato una volta anche a 40 anni, 30 anni, 50 anni, basta. La prima volta sanzione normale, quella prevista attualmente, la seconda no, dopo la seconda noi dobbiamo evitare l'episodio di Brescia, capisce, che un signore al terzo, quarto, quinto ritiro di patente poi vada a uccidere un ragazzo di 14 anni e debba essere la prova della polizia che stende un lenzuolo bianco a dimostrare che non era guarito. No, dopo la seconda volta, caro signore, tu viaggi con 0-0 e sei tu che devi dimostrare allo Stato che ti sei disintossicato da alcol e sostanze. Detto questo, ribadisco, le sanzioni ci sono, certamente siamo favorevoli che vengano anche in qualche caso riviste, però dopo le medicine forti servono i medici in divisa che le applichino in maniera più controlli e seria. Più controlli. Onorevole Valducci, vede, molta gente ci scrive, per esempio, succede spesso quando trattiamo questi temi che sono molto molto popolari, ahimè, perché insomma tutti ci confrontiamo con questo. Vedi, per esempio, un ascoltatore ci scrive da Asti e dire: io lo vedo tutte le mattine, insomma, chi entra magari al bar già al mattino, si fa il caffè corretto, poi salta in macchina, cioè è un'abitudine che forse è portata dal fatto che non ci sono controlli effettivamente. Cioè, se io mi metto in macchina so che è molto alta la probabilità che nessuno mi fermi. Non è che insistendo di più su questo punto è la vera strada? Beh, infatti noi, come ho detto, puntiamo sul tema dei neopatentati. Le faccio un piccolo episodio di vita comune. Io ho dei figli piccoli e quando salgo in macchina talvolta mi dimentico la cintura di sicurezza, sono loro a ricordarmelo, perché ormai sono stati abituati fin dal primo anno di vita a mettersi sempre la cintura. Quindi anche questa norma che abitua i giovani a distinguere, no, i due momenti, perché personalmente non sono assolutamente contrario al bicchiere di vino, quindi al bere responsabilmente un po' di vino oppure un po' di alcol. L'importante è distinguere, ecco, il momento della guida rispetto al momento del bere. Sui recidivi che ne pensa la proposta di... No, mi sembra, insomma, ne ho già parlato, ho già avuto occasione di parlarne, penso che sia una proposta di buon senso che possiamo assolutamente valutare, perché ricordo che poi qualora il ministro recepisca il testo e lo faccia un decreto è già legge, ma poi abbiamo i 60 giorni di tempo in cui il Parlamento può portare ulteriori modifiche e quindi questa potrebbe essere una di quelle modifiche da portare. Un ultimo punto è questo: spesso si discute se quando ci sono i cosiddetti pirati della strada, quelli che travolgono, spesso anche uccidono e scappano, l'accusa a volte quando vengono presi è di omicidio volontario e poi viene derubricata in omicidio colposo insomma, perché non regge l'accusa, il codice è quello. Lei che ne pensa? Dovrebbe essere omicidio volontario in maniera automatica, però bisognerebbe cambiare il codice, è un lavoro che dovrebbe fare la politica. Guardi, non c'è dubbio che quando un cittadino beve in modo eccessivo e poi si mette al volante va a mettere in pericolo la vita degli altri e quindi indubbiamente è un omicidio di natura volontaria, per cui uno è consapevole che nel momento in cui o usa sostanze stupefacenti o si ubriaca non è nelle condizioni di guidare e quindi di mettere in salvo la propria vita e anche la vita degli altri. La ringrazio onorevole Valducci, che voglio ricordare presiede la Commissione Trasporti e anche Poste e Telecomunicazioni alla Camera del Popolo della Libertà, ero dimenticato di dirlo, così come ringrazio Giordano Biserni, presidente dell'Associazione Amici della Polizia Stradale. Un tema sul quale torneremo, vedremo se il ministro Matteoli recepirà queste proposte per fare un decreto legge, dunque una cosa più spedita, o se seguirà l'itere. Comunque, insomma, è un tema sul quale torneremo. Sono le 8:46 minuti e eccoci qua con 24 mattino, l'ultima parte. Insomma, io è un tema che in redazione a volte lo lanciavo con i miei collaboratori, a dire: ma bisognerebbe che qualcuno si inventasse di seguire, che ne so, un politico, un senatore, un onorevole, seguirlo proprio come un'ombra e poi scrivere un libro, raccontare quante telefonate riceve, chi, che tipo di domande riceve, come si comporta la gente quando lo incontra, no? Perché siamo abituati sempre a vedere il politico un po' in maniera distante, descritto, magari anche con del qualunquismo, eccetera. Ebbene, c'è chi l'ha fatto, complimenti, si chiama Massimo Cerullo, lo saluto, buongiorno, è qui con noi. Massimo Cerullo, buongiorno. È un ricercatore dell'Università della Calabria e ha fatto una ricerca etnografica che è diventata un libro, Un mondo quasi a parte, la vita quotidiana del politico di professione, uno studio etnografico. Lei, insomma, che ha fatto? Ha seguito quanti politici? 16 politici complessivamente. Questa è una ricerca che è nata 4 anni fa nell'ambito del mio dottorato di ricerca e ci siamo inventati un po' questa ricerca etnografica con la tecnica dello shadowing, che significa effettivamente fare ombra al politico che si va a seguire. Tutti in Calabria sono? Tutti in Calabria? Tutti in Calabria, sa, ma ero senza borsa di studio, quindi... No, ma non è va benissimo così. Insomma, tutti, per carità, diciamo subito, nel libro non ci sono nomi, sono l'assessore, il consigliere, l'onorevole qualche volta, l'assessore donna, ma non ci sono nomi. Però, voglio dire, ne esce un ritratto di questo mondo quasi a parte. Oh, iniziamo, Cerullo, dalle cose più classiche che tutti vogliono sapere, il come si manifesta nella gente che gli sta intorno il potere del politico, quando, che ne so, arriva un assessore in un ospedale, lei lo racconta molto bene. Si manifesta che nell'ospedale in particolare la gente si apre come quando Mosè aprì le acque, perché il politico, soprattutto in Calabria, soprattutto al sud, è persona riconosciuta, in quel caso era un assessore regionale, ma anche l'assessore comunale è persona assolutamente conosciuta e riconosciuta dalla gente comune, è una persona alla quale spesso ci si chiede favori anche nella vita quotidiana. L'esempio dell'ospedale, per citare il caso specifico, racconta bene come il politico viene subito circondato da diverse persone, alcuni lo salutano, altri millantano parentele delle quali magari il politico neanche ricorda, ma molti vanno vicino a chiedere ricorda mio nipote, ricorda mio compaiono figlio. Anche, compare anche la moca per fare il caffè pronto, giusto? Ma guardi, se lei ha presente un po' l'ospedale pubblico, no? Come siamo abituati a vederlo noi, di solito tra il ticket e tra le file varie c'è da aspettare tanto. Ecco, questo politico, che era un assessore regionale, è stato accolto dal capo infermiere, diciamo così, accompagnato fino al reparto in questione, e lì è iniziato un corteo di questuanti a chiedere informazioni personali, ma anche favori, favori specifici. Poi c'è una moca, la moca, certo, una rivista stampa per fare il caffè, stampa, il caffè come si deve. Ci sono poi i telefonini. I telefonini, l'ho scoperto leggendo il libro, molto interessante. Ci sono praticamente conversazioni con tre telefonini, cioè il politico senza il telefonino è nulla. Mi sembra di capire questo. Praticamente nulla, sì, ma diciamo che ne ha, la media è questa, ne ha uno personale, poi un altro che è quello istituzionale, quindi alla regione, della provincia, del comune, e poi ci sono i telefonini dei collaboratori, quindi certo, quello dell'autista e quello del consigliere particolare. C'è un assessore donna, che è una, io l'ho chiamata passionaria per i modi coraggiosi con i quali si pone, che in una conversazione riusciva a parlare con tre telefoni contemporaneamente e teneva tutte e tre le conversazioni, il che era veramente incredibile, la capacità di passare da un fermo all'altro. La politica del do des, anche questa viene molto bene fuori dalle pagine, cioè il dare per avere, insomma, la politica è così, ma non solo nei politici che lei probabilmente ha visto, ma in tutta, nella politica, insomma, no? Questo è il motto che regge un po' tutto il sistema. Ma penso di sì, penso di sì. No, questo non era uno studio di antipolitica né teso a delegittimare le elite politiche, è stato un tentativo di osservare la politica dal basso, ecco, non concentrandosi per una volta sugli aspetti macro e quindi proposte di legge, dinamiche partitiche e via dicendo, ma vedere la vita quotidiana. Sì, emozioni, sentimenti, come si pongono con le persone comuni. Il do ut des esiste, insomma, ci sono mille studi sul fenomeno del clientelismo al sud Italia, ma non solo. Il do ut des è evidente nella vita quotidiana. Ecco, come ci si prendiamo può un caffè, sì, c'è una richiesta specifica, ma c'è un caso particolare raccontato, sì, nel libro, in un'intervista, in cui in un sindaco donna, al funerale del padre, viene fermata durante il funerale del padre da un signore che le fa le condoglianze e poi le chiede ma quella determinata pratica è stata fatta o no. È incredibile, addirittura al funerale del padre. Ecco, ma come si comportano in generale i politici quando, come dice, come Mosè davanti alle acque che si aprono, con la gente comune, con questa folla di questuanti, voglio dire, si sentono importanti oppure anche un po' infastiditi alla lunga, voglio dire, passare 10 ore al giorno con gente che ti si riversa addosso, posso capire che dopo un po'... Beh, a me sembra che in generale il riconoscimento sia un po' il loro ossigeno esistenziale, senza riconoscimento non si vive, quindi lo cercano, lo carpiscono anche diverse volte. Poi bisogna fare delle differenze, in particolare c'è un gruppo di politici, un gruppo molto minimo di politici che cercava l'anonimato, però questo l'ho visto soprattutto nel politico già arrivato, in quelli oltre i 60, anche 70 anni, quindi che avevano una determinata esperienza alle spalle, insomma la carriera era fatta, bella che fatta. Ma per tutti gli altri questo riconoscimento era assolutamente fondamentale. Alcuni chiarivano che era un riconoscimento che cercavano per le opere fatte e non tanto per la carica ricoperta. È una mistificazione. Guarda. Senta, ma lei ha detto non è un lavoro di antipolitica ed è vero. Per esempio, sfatiamo il mito che le persone che lei ha seguito non lavorino. Io ho trovato giornate che iniziano alle 8 del mattino e finiscono alle 2 di notte, magari tra incontri anche barbosi, riunioni, cose veramente di scarsa qualità dal punto di vista emozionale, però cioè, non pranzano, saltano il lei per esempio, seguendo queste persone quasi non pranzava mai, cioè una no, vitaccia, mai, mai. Una vitaccia sì. Insomma in una vitaccia, no, ma guardi, io dopo questa ricerca sono arrivato alla consapevolezza che non farò mai il politico, perché in effetti è una vitaccia, hai degli orari assurdi, hai degli obblighi istituzionali, tipo le riunioni di partito, le riunioni istituzionali, le riunioni che la carica ricoperta ti impone, e ti fanno vivere in maniera stressata, ma veramente. Oh, diciamolo ad alta, i politici lavorano, diciamolo. No, non c'è dubbio su questo, perché è inutile poi, se no si generalizza, si strumentalizza in maniera anche un po' sempliciotta. Lavorano, fanno una vita incredibile dalle 8, ma insomma dalle 8, dalle 7:30, dalle 7 di mattina, soprattutto chi abita fuori dai centri, dalle città, no? E poi hanno, questo comporta un rapporto problematico sia con le famiglie, perché quasi tutti quelli seguiti hanno dei rapporti che io definirei drammatici con le proprie famiglie, con il proprio ambito privato. Mm. Si figuri che un politico, che era un assessore regionale, in un'intervista rilasciata disse: io non riesco a staccarmi dalla maschera politica neanche in famiglia. Quando sono con mia moglie, e ciò avviene sabato e domenica fondamentalmente, io continuo a comportarmi da politico anche in famiglia, fino a quando lei non me lo fa notare strattonandomi per la giacca. Vabbè, insomma, questi sono anche problemi di un altro tipo, forse, no? Talmente calato nel ruolo. In ogni caso, io mi devo fermare qui perché siamo arrivati al termine. Massimo Cerullo, la ringrazio. Un mondo quasi a parte, Guerini Studio, Guerini Editore, chi lo volesse comprare, insomma, per vedere cosa vuol dire, come vivo quotidianamente i politici, in questo caso calabresi, che lei ha seguito. Ci fermiamo, tra poco Giuliano Ferrara parla della nascita del Popolo della Libertà. Grazie ad Alessandro Marcotulli e Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. 24 mattino @radio24.it. A domani.